Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Magazine, magazine, magazine che si collegano con tutte le rubriche del Breakfast Club. Iniziamo dalla letteratura, passeremo all'arte, a seguire in letteratura e non solo, dialogando con voi, in questo caso anche con un'intersezione musicale per il personaggio misterioso. Personaggio misterioso, uomo, fine 800, compositore, uno dei primi grandi ricercatori musicali in un ambito specifico, E per voi un lavoro Iperborean, il cliente Basken di Gerren Brouwers, uno degli scrittori olandesi più importanti, purtroppo scomparso nel 2022. Ha lasciato questa testimonianza che è stato definito un po' il suo testamento. Sono andato da Ubik, cosa che consiglio anche a voi, ascoltatrici e ascoltatori, in Via Nerio 27, e poi tutte le librerie indipendenti motivo di fascino, e ho ritrovato il motivo di attenzione invece anche per quanto riguarda la casa editrice Iperborea. Sono stato giovedì, mi pare, da Ubi che, chiacchierando, scegliendo, facendo conversazione letteraria, ho notato che Iperborea quest'anno ha avuto una produttività legata alla qualità molto importante, e ci pensavo, no? Guarda te, Iperborea, che ho seguito da Alto Pasilin a tanti altri autori. Beh, certo, Pasilin è un autore molto pop, ma anche molto, seppur autodidatta, preparato e con un motivo di narrazione legato alla natura, di approfondimento, se vogliamo anche divertente, con un'ironia e una capacità di percorso per trovare motivo di conversazione con lettrici e lettori attenti e farci conoscere altri spazi e altri luoghi, come un po' tutti per Borea, per il panorama scandinavo, ma non solo scandinavo, baltico, dall'Olanda e da altri paesi che magari hanno un'attenzione letteraria importantissima, ma non una specificità così precisa come Iperborea porta. Già il formato, anche il disegno di copertina, e qui mi collego all'arte, ha sempre con questo pastello e questa carta zigrinata che è inconfondibile, il formato, il mattoncino per costruire con libri, veramente motivi di dimora letteraria sempre più particolare. Storie editoriali, siamo a pagina 16 della domenica del Sole 24 Ore, archivio del presente dedicato alla casa editrice fondata da Emilia Lodigiani, con una pregevole attenzione ad autori del nord ma anche alla grafica. Il lavoro è Archivio del presente Iperborea ed è possibile, insomma, trovarlo, in quanto si può avere una storia nella storia o nelle storie riportate da Iperborea, casa editrice che seguo. A tratti sono rapsodico, restando in tema musicale, per quanto riguarda Iperborea. Ecco, ultimamente ho trovato che è rispuntato questo motivo per seguirne i contenuti, con questo autore olandese che non conoscevo, ma importante. Questo è il suo ultimo lavoro, nel senso di testamento come lascito, e anche la tematica è molto particolare, con il cliente Basken. Lui è Gerren Brouwers, ne consiglio tanto da metterlo in palio per oggi, per la scoperta dell'autore in musica misterioso, come vi ho detto, fine 800, autore ricercatore musicale. In che ambito? Beh, vi faccio ascoltare un brano dei Musiskas che si ispira alle composizioni di questo autore. Se vi arriva in mente questa danza, ecco, mi potete scrivere il nome di questo compositore. E per voi il cliente Busken da Iperborea di Gerren Brouwers. Thank you. lui è un tutti i tempi, è stato veramente illuminato, è stato il primo musicologo, etnologo nella ricerca musicale. Lui nasce, non si può definire Est Europa, e quindi ha avuto uno sguardo nella tradizione popolare, pur restando legato a una sorta di classicità nella musica. I suoi maestri, da Wagner per citarne qualcuno, fino in maniera totalmente originale, voltare lo sguardo a Oriente e dare un'intersezione con quella che è la tradizione dell'Europa dell'Est. I Musiskas qui ne hanno fatto un tributo. I motivi di ispirazione di questo autore, a cui voi chiedo il nome, la sua composizione più famosa sono delle danze di un determinato paese. Le danze, se non indovinate vi dico anche il paese, però ovviamente mi auguro, la butto lì, no? L'hai buttata lì bene, Dino, e sono molto contento di poterti consegnare il cliente Busken, o Busken, perché adesso la pronuncia mi sfugge, di Jeroen Brouwers, e ne sarai molto contento di questo premio, perché sei il vincitore di inizio settimana. L'autore di cui stiamo parlando è Béla Bartók, le danze ungheresi. Puoi venire a ritirare questo mercoledì a Comini Express, sicuramente bello, ecco, mi lancio questa gufata, per cui ti restituisco i tuoi dischi, prima li propongo in radio già da domani, i tuoi bellissimi vinili, li restituisco con tutta la cura possibile e ti consegno il premio di oggi. Visto che sono in via Fioravanti 68 al Comini Express, se ti è comodo, Dino dalla Bolognina, il tuo premio ti attenderà per mercoledì di questa settimana. Procediamo in musica, cambiamo magazine e andiamo su Alias, l'edizione del sabato del Manifesto. Ne abbiamo già parlato di questa realtà. A pagina 12 troviamo però un approfondimento più forbito, se vogliamo, rispetto a quello portato, certamente importante, da Tutto Libri della Stampa della settimana scorsa, e magari avremo modo in questo caso di saperne di più di Ritmi Degenerati. Pensate come l'arte degenerata, con l'espressionismo tedesco, con grandissimi artisti che sono stati vietati, proibiti per arte degenerata, c'era anche il ritmo degenerato. Sì, stiamo parlando di jazz. Ed è strano questo approccio propagandistico che aveva il regime nazista, che non va comunque a sottovalutare nelle sue svariate implicazioni queste espressioni artistico-musicali, e lo spietato gerarca Joseph Goebbels, che conosciamo come ministro della propaganda, braccio destro del Führer, con la cultura fomentò un odio e utilizzò il jazz in chiave anti-inglese. Come? Eppure la musica sincopata, come veniva definita all'epoca, rappresenta la nemica America ed è patrimonio, si pensava, unicamente dei neri, considerata razza subalterna, ed è stata proibita dal regime. Il jazz per i nazisti entrat music, cioè musica degenerata, l'ho detto proprio, musica degenerata, intendevano in questo modo. Poi allo stesso tempo i gerarchi si ascoltavano i dischi di cool jazz, avevano delle collezioni di quadri di grandi espressionisti e quant'altro. Questo è un discorso che sappiamo bene. Intanto Hitler addirittura nel Mein Kampf cataloga i neri come inferiori e le leggi razziali del 1935 appunto decretano che chi non è tedesco e chi ha antenati di sangue ebreo e nero è assolutamente da limitare, nonché da eliminare. Nonostante i presupposti del regime e del suo ministero in particolare, Goebbels, pensate, fonda nel 1940 una band swing, Charlie and His Orchestra. La compagine nasce dal nulla, per ordine politico, con lo scopo di diffondere nell'etere musica intrigante e dare un tono alla stazione radiofonica tedesca anti-Gran Bretagna, che trasmette in lingua inglese Germany Calling, martellando l'Inghilterra con la più subdola propaganda, che vuole contrabbandare la superiore cultura del nazionalsocialismo. Il jazz è il passepartout perfetta per infiltrarsi nelle retrovie nemiche, meglio dei razzi V2 o delle bombe. E chi ingaggia Goebbels per le sue band? Beh, eccellenti suonatori, tra i quali ebrei, omosessuali e altri perseguitati. L'ensemble, finanziato dal braccio destro di Hitler, aveva lo scopo di minare lo spirito, pensate, degli alleati nazi jazz, la guerra della propaganda. È in un romanzo dello svizzero Damian Lehnard la storia della band e della radio voluta da Joseph Goebbels per Bollati e Beringhieri. Intanto, a tale proposito, allora, io metto dell'Etio Jazz con chi sarà presente al Bologna Jazz Festival per la prossima edizione nell'autunno 2024. È Mulatu Astatke, ve lo propongo, augurandovi un buon ascolto, ricordando che il jazz è la musica più trasversale di tutte e di tutti. Etio Jazz da Mulatu Astatke, a tra poco. grandissimi, loro numero uno tutti i tempi, secondo me, proprio in una ricerca musicale che in questo caso guarda l'Africa, gli Heliocentrics. Mentre in formazione per il Bologna Jazz Festival ci sarà Alexander Hawkins, pianista inglese, talento straordinario. Mi fa piacere perché vuol dire che è nato dal caso questa vittoria, ma indubbiamente è meritata. Scrive: non ci credo, no, credici, e poi leggi un gran bel libro. Mi è venuto in mente perché ieri ho visto Est, storia vera di tre cesenati che si trovano in Romania nel 1989. Bartok è menzionato più volte, grazie, ma grazie a te, perché è ufficialmente nativo in Ungheria, ma la zona dell'Ungheria, sapete, con la situazione post seconda guerra mondiale, viene poi assegnata alla Romania. Lui è di origine ungherese, le danze ungheresi restano il suo capolavoro. Abbiamo ascoltato subito dopo il brano che vi ho proposto di tradizione, poi con una rielaborazione dello stesso Bartok, Roundabout Bartok, da Beirek Huberner Mraz, edito dalla Act Record, per cui anche in questo caso il jazz ha motivo di presenza, e come, inteso nella maniera di improvvisazione. Da Tutto Libri invece si parla di una sorta di purezza, in questo caso è l'italiano vero, dal titolo così apre in long format la prima pagina di Tutto Libri. Esce la versione aggiornata del dizionario della lingua italiana Sabatini con Letti Manfredini, dal ruolo dei verbi alle parole controverse, un vocabolario e sempre una presa di posizione. Qual era il vostro vocabolario? Mi ricordo che avevo il Treccani, parole inclusive, centralità del verbo, è nato il dizionario dell'italiano adulto, e questa appunto ne è un aspetto importante su carta, perché adesso poi con la possibilità online abbiamo invece un momento di difficoltà per questo formato di consultazione, che deve e sempre restare importante. Quasi mai i lessicografi ci dicono che cosa hanno scartato nella scelta delle parole. È vero, questo è volume temperato, aperto al nuovo, senza gesti provocatori. E poi ovviamente non dimentichiamo gli aspetti di origine, il saggio Lingua Morta, parliamo latino a nostra insaputa, ma parliamo anche greco, Quel poco di scuola che ho fatto, ne avrei bisogno di un vocabolario, di un dizionario. Come no? Vi ricordate, si andava a scuola per fare i temi con questo librone sotto braccio, nella borsa, per quanto riguarda la possibilità di essere più corretti possibile, no? Io, il Treccani, me lo ricordo ancora, ormai lesionato, ma ce l'ho ancora, dell'etimo, dell'origine, della desinenza e della radice, lo studio della parola. Poi adesso ultimamente, con l'importanza che ha il linguaggio, è un motivo ulteriore, e sottolinea anche alcune terminologie, senza darne definizione, di come l'intersezione con l'inglese sia diventato motivo purtroppo di abuso. Generi e prestiti, chi controlla la grammatica, molte volte per motivi così, chiamiamoli professionali, di lavoro, ma... Ma ma anche per abbindolarci meglio al consumo, anche quello vuole la sua parte e sono certo che ne avete esempi quotidianamente di tutto ciò nell'intersecare parole nuove con l'inglese per essere più accattivante nel lavoro, invece per abbindolarci meglio, per dare a intendere determinati concetti in maniera più soft, mentre invece molte volte non lo sono affatto. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco e parliamo di arte con un'esposizione che vorrei portare in mostra. Due sono le esposizioni riportate dai nostri magazine. Uno è Le avanguardie del deserto, ne abbiamo parlato grazie a Studio SC per quanto riguarda la centralità dell'Uzbekistan, paese caucasico che ha avuto motivo di avanguardia molto forte. E nello stesso tempo invece, tornando per mettere protagonista un percorso manierista a Pesaro, conosceremo il Barrocci, il canone inverso del Barrocci. Beh, sarà motivo di attenzione nel rientro dopo la pubblicità a questi magazine. Intanto Spooky, lui è Cold Theater. Thank you. lasciato a proposito di parole con il termine canone inverso, è una terminologia legata alla composizione, a proposito di musica collegandoci all'arte. Nei nostri magazine oggi un canone inverso è una composizione contrappuntistica che si unisce a una melodia, una o più, imitazioni che si sovrappongono progressivamente e fa muovere la voce conseguente in modo contrario rispetto alla voce antecedente, canone inverso. Grazie a un artista, Federico Barrocci, un manierista urbino, sarà in esposizione, vorrei appunto farne approfondimento in una delle prossime rubriche a Regola d'Arte, su consiglio involontario di Alias nell'edizione domenicale a pagina 9. Sapete il canone inverso di Federico Barrocci a chi viene riportato? Al nostro Giorgio Morandi, proprio per percorsi artistici e naturali. Morandi nella sua cella è dunque il contrario dell'esteta nella sua torre d'avorio. Sono parole che nel 1945 Roberto Longhi cercava di penetrare il mistero del processo creativo di colui che giudicava, e non certo il solo, il maggior pittore del Novecento, cioè Giorgio Morandi. Egli avrebbe poi ripubblicato quelle pagine più tardi, soltanto per corrispondere al caro desiderio espresso dalle sorelle di Giorgio Morandi, sapete, loro molto presenti. L'immagine del maestro che praticamente da subito si rinchiude nell'amata Bologna, nella nostra città, e ritirandosi quasi a vita privata, senza prendere mai moglie e vivendo con queste tre sorelle. E come vi ho detto, è un canone inverso, non è forse troppo lontana da quella di Federico Barrocci, anche se in epoca diversa, da cui appunto volevo dare approfondimento nelle prossime puntate in mostra. Genio da subito riconosciuto, celebrato e corteggiato anche dai contemporanei, che dopo i giovanili successi nella Roma capitale, quindi attenzione il percorso inverso che fa, si autoesilia nell'altrettanto amata Urbino, vivendo da uomo profondamente devoto, quasi 50 anni senza prender moglie, fatto assai più raro nella sua epoca, e rimanendo legato quasi unicamente a sua sorella e a suo fratello. Quindi un percorso inverso dalla grande città all'aspetto periferico di Urbino, contrariamente invece che da quello eseguito da Giorgio Morandi, ma con tante attinenze nonostante la diversa appartenenza d'epoca, e di questo ne volevo appunto riportare i contenuti facendo approfondimento su questa grandezza artistica, come viene definito nell'articolo su Alias edizione domenicale del Periferico. Di canone inverso nell'arte, partendo appunto dalla musica, nella vita di questi due artisti in epoche diverse, riportandosi alla grande città Morandi e portandosi invece nel centro periferico il Barrocci, pur restando con parallelismi di vita assolutamente comparabili. Avremmo modo di darne approfondimento grazie a Alias edizione domenicale, che come ben sapete a volte involontariamente dà consigli. Come è uscito, mi pare, sulla Domenica del Sole 24 Ore, un approfondimento su Uzbekistan, le avanguardie del deserto, di cui abbiamo parlato sempre nella rubrica A Regola d'Arte. Quindi vedete, è una conversazione a distanza inconsapevole con i magazine. Bello strano, abbiamo ascoltato Jeremy Dower, avevo voglia di proporre questo trombettista tra elettronica, jazz e avanguardia. Jeremy Dower, il brano che abbiamo ascoltato, Should I Trust My Heart, I Trust My Heart, pronunciamolo bene che se mi sente Andrea poi mi sgrida. Giustamente, peraltro. Intanto concludiamo con questo dibattito delle idee, della lettura del Corriere della Sera, per fare un giro periferico a nostra volta anche sui magazine. Cielo e fede di cemento, l'anima delle nuove chiese. I più recenti edifici per il culto cattolico rivelano una sensibilità diffusa in tutto il mondo tra gli architetti che cercano di intercettare il bisogno di spiritualità di oggi. Se per Mario Botta i progetti devono testimoniare valori identitari all'interno della nostra storia, c'è chi anche nel clero ammette la difficoltà della sfida con la contemporaneità. La committenza è smarrita, i confini fra visione e tradizione sono un territorio estetico molto fertile, e concordo con chi ha scritto questo articolo, ma è molto molto complicato. Quindi sì, l'analisi di Stefano Bucci è azzeccata, l'estetica delle nuove chiese. Mi piacerebbe sapere, ma siamo in conclusione, anche da voi, per quanto riguarda, non so, ad esempio Chiesa Nuova tra via Mura e via Toscana, con questo ricciolo alla sommità, ma tante altre poi che hanno un'architettura molto particolare e singolare, se pensiamo al passato, se pensiamo a una sorta di classicità in questi edifici urbani e anche non urbani. Ce n'è una a Tornova, frazione di Loreo, che sembra una chiocciola avvolta su se stessa, una navicella extraterrestre. L'appuntamento è a domani con il Move to Groove. Vi lascio con questo interrogativo: quali sono questi edifici che in città o anche in periferia vi lasciano più curiosità per la loro originalità di architettura? A domani al Move to Groove insieme al nostro roster al completo con Pietro Rossi e Paolo Nofri avremo non solo motivo di filosofia e critica cestistica, ma anche la consueta playlist che vi terrà compagnia al Breakfast Club tra soul, funk e jazz. E quindi momentaneamente mi congedo, vi invito alla rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, vi lascio con l'Edipeo enciclopedico, liberi dentro intanto per questa mattinata di inizio settimana al Breakfast Club. Super mattiniere e super mattinieri, mi raccomando, puntuali alle ore 7 domani per l'imprevedibile martedì dei 103.1. Grazie dell'attenzione, ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.